L'anatroccolo ha passato un inverno terribile. Così terribile e duro che quasi non si accorge che il sole è diventato più caldo, che i fiori sono sbocciati e che la palude si popola di nuovo di verde e di animali. Solleva le ali e le sente stranamente forti, così forti che lo sostengono in aria. Senza quasi accorgersene, finisce in un bel giardino con fiori profumati e fronde d'alberi che sfiorano l'acqua di un bel laghetto. Ma ecco che dal folto del bosco sbucano tre cigni. Sì, li riconosco, come sono belli, come scivolano sull'acqua. Devo volare fino a loro, starli vicino almeno per una volta. Mi beccheranno, mi uccideranno perché un bruttone come me osa avvicinarsi a loro così belli. Ma preferisco morire ucciso da un cigno piuttosto che sopportare ancora gli insulti delle anatre, le beccate delle galline, le pedate della ragazza del pollaio, il gelo dell'inverno. Eccomi, vi vengo incontro, ecco. Abbasso il collo, uccidetemi, ecco, mi chino sull'acqua. Ma chi c'è in acqua? Non è possibile, non è possibile, ma sono io, ma non mi somiglio, ma sono io, sono io. E tappello chi sei, e tappello chi sei, ma sei un dèo. Il tappello chi sei? Il tappello.